Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio, ultima puntata della settimana, poi vi daremo un pochino di tregua con i temi economici e finanziari legati a noi tutti, però insomma i temi che stiamo affrontando negli ultimi giorni sono molto interessanti e soprattutto hanno contribuito ad arricchire molto i contenuti delle nostre trasmissioni, le novità che sono arrivate con la manovra economica varata qualche giorno fa. E come vi abbiamo anticipato, questa manovra ha effettuato un nuovo intervento nel campo delle pensioni. Ci sono delle modifiche delle regole che disciplinano la rivalutazione dell'assegno pensionistico. Infatti è prevista una stretta sulle rivalutazioni che in pratica vengono azzerate se parliamo dei trattamenti pensionistici che superano 5 volte il minimo. Vengono invece dimezzate queste rivalutazioni per i trattamenti compresi fra 3 e 5 volte il minimo pensionistico. E la novità della manovra, che al momento è più contestata, è probabile, lo ha detto anche il ministro Sacconi 2 giorni fa, appunto, quando c'è stata la conferenza stampa di illustrazione della manovra con Tremonti, è probabile che durante la discussione parlamentare in sede di conversione del decreto legge ci saranno delle modifiche. Altra novità per chi è ancora al lavoro, la novità più importante è l'innalzamento progressivo dei parametri per la pensione di vecchiaia per le donne attive nel settore privato, nel lavoro autonomo. Per quelle del pubblico impiego l'innalzamento dell'età pensionabile è già stato fissato, e poi i nuovi scalini, appunto, per quello che riguarda le donne nel settore privato e nel lavoro autonomo, partiranno dal 2020 e saranno a regime a partire dal 2032. Altra novità molto rilevante è quella che si riferisce all'età pensionabile legata alle aspettative di vita. La nuova manovra correttiva dei conti, che ricordiamo tra l'altro per chi fosse appassionato di riferimenti legislativi, è contenuta nel decreto legge 98, anticipa di un anno, questa manovra appunto, le disposizioni che modificano i requisiti anagrafici per l'accesso ai trattamenti pensionistici sulla base delle aspettative di vita. Allora, tutte le novità sono stamattina affrontate in maniera molto articolata e dettagliata dalla guida pratica del Sole 24 Ore. Come sapete, noi rubacchiamo sempre dalle guide del Sole il lunedì e il venerdì, visto che adesso esce anche la doppia versione, e anche la guida di stamattina funziona con la possibilità offerta ai lettori di inviare dei quesiti collegandosi all'indirizzo www.ilsole24ore.com/pensioni, quesiti che possono essere inviati agli esperti appunto messi a disposizione del Sole fino alle 18 di questa sera. Come sempre, domani troverete le risposte sul quotidiano e dai giorni successivi anche sul sito. Allora, molti esperti che hanno scritto la guida di oggi, noi ne abbiamo scelto uno, è l'avvocato Giampiero Falasca, che torna a Salva Danaio e che saluto. Buongiorno avvocato, benvenuto a Salva Danaio di nuovo. Buongiorno a lei, buongiorno. Tra l'altro, l'articolo che in particolar modo, il tema che in particolar modo l'avvocato Falasca approfondisce questa mattina sulle pagine del Sole 24 Ore, sulla guida del Sole 24 Ore, è il tema relativo ai nuovi parametri per quello che riguarda la pensione delle donne nel lavoro privato e nel lavoro autonomo. E magari nella seconda parte di Salva Danaio avvocato faremo un focus anche su questo, perché ci interessa molto, ma soprattutto andremo ad esplorare le 3 grandi novità introdotte appunto dalla manovra correttiva dei conti di qualche giorno fa. Per cui io vorrei subito invitare i nostri ascoltatori ovviamente a mandarci delle domande all'800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, oppure ad inviarcele al 349 238 6666. Vi pregherei di focalizzare i vostri quesiti di stamattina sulle 3 novità appunto della manovra economica. Non vorremmo di nuovo entrare nel giro delle domande estremamente dettagliate che ci fate di solito, non perché, come sapete, dati i tempi radiofonici è abbastanza impossibile poi poter dare delle risposte molto precise. Per i vostri casi specifici scrivete al Sole 24 Ore, così gli esperti hanno più tempo per riflettere e farvi anche delle risposte dettagliate e molto precise. Per quello che riguarda le domande radiofoniche, stamattina magari così cerchiamo di circoscrivere l'ambito dei vostri quesiti alle 3 grandi novità introdotte, come ribadisco, dalla manovra appunto di qualche giorno fa. Allora, prima però abbiamo l'appuntamento con la borsa, perché qua oggi si preannuncia un'altra giornata calda per Piazza Affari. Milano da qualche giorno è davvero nel mirino degli investitori internazionali, la piazza che soffre di più, sia perché ovviamente per i timori legati al possibile contagio ad altri paesi della crisi greca, l'alta esposizione del listino italiano alle banche fa sì appunto le vendite, che magari possono essere limitate ad alcune piazze, si propaghino a Piazza Affari in maniera molto più consistente e dirompente. Infatti oggi è quello che sta accadendo di nuovo: il FTSE MIB perde l'1,74% a fronte di una Parigi che perde lo 0,2%, a fronte di una Francoforte che è positiva per lo 0,20%, a fronte di una Londra che invece naviga sulla parità. Oggi, bersagliata dalle vendite, risulta Unicredit, che perde il 4,49%, ha perso fino al 6,5%, è finita in asta di volatilità. Per il titolo si sono cominciate a diffondere sul mercato delle notizie, delle indiscrezioni sulla possibilità che il gruppo abbia lo studio rafforzamento del capitale, ipotesi che era stata assolutamente negata dal gruppo fino a qualche tempo fa, mentre queste manovre, come sapete, sono state portate avanti da tutti gli altri grandi istituti di credito del paese. Vedremo se questa circostanza sarà più o meno confermata nei prossimi giorni. Di fatto il titolo è finito appunto nel vortice delle vendite. Anche Azimut oggi è presa di mira dagli investitori in termini negativi: il gruppo del risparmio gestito perde il 4%, il Banco Popolare perde il 3%, Fondiaria, figuriamoci, anche oggi non manca l'occasione di mettere a segno un'altra perdita consistente, meno 3 punti, anche se poi stamattina per il gruppo assicurativo la giornata era partita meglio, con un rimbalzo di circa 2 punti subito annullato. Anche Ansaldo perde il 2,46%, anche il Banco Popolare, l'ho già detto, meno 2,83%, Popolare di Milano meno 2,51, Mediobanca meno 2,33, Generali meno 2,24, Intesa San Paolo meno 2,48, insomma sempre le banche nel giro e nel vortice delle vendite. Peraltro questa situazione si fa sentire anche perché è ritornata l'attenzione sui titoli di Stato. Il differenziale di rendimento fra BTP e Bund, cosiddetto spread, ha superato un altro record, si è portato sui 238 punti e quindi il tasso di rendimento dei titoli di Stato a 10 anni dell'Italia è salito al circa il 5,25%, per cui si sta verificando stamattina questo fenomeno che in gergo finanziario è conosciuto come il flight to quality, la ricerca sul mercato obbligazionario di titoli di qualità. Il titolo di qualità per eccellenza in Europa è ritenuto appunto il Bund tedesco, perché tutti a comprare il Bund ovviamente invece ci si allontana dagli altri titoli obbligazionari dei paesi cosiddetti periferici. Quindi anche la Spagna stamattina sta pagando questa situazione con i rendimenti dei decennali che appunto si stanno avvicinando intorno alla soglia psicologica del 6%. L'euro va giù, sul dollaro quota 1,42,57, però insomma, per non dare solo notizie negative, vediamo anche chi stamattina è positivo. Beh, non abbiamo grandi performance. Monte dei Paschi, addirittura un bancario, è il migliore, guadagna lo 0,19%, Campari più 0,09%, società che questa settimana ha festeggiato anche un importante anniversario, Bulgari più 0,08%. Qua abbiamo terminato. Oggi peraltro è una giornata importante per il versante macroeconomico, perché abbiamo il dato sulla disoccupazione americana a partire dalle 14:30, anche quello sarà un elemento importante per dare così un'altra direzione, magari cambiarla completamente sul mercato nel pomeriggio. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi, ritorniamo sulla manovra economica del governo di qualche giorno fa, le novità che questa ha introdotto sulle pensioni. Quando avrò maturato i requisiti per andare in pensione, quale sarà il mio assegno mensile? Sono alcune delle domande che, dopo la manovra finanziaria varata in questi giorni dal governo, avranno risposte diverse da quelle valide fino a qualche giorno fa per molti milioni di cittadini. Innanzitutto, quello che preoccupa la maggior parte dei lavoratori è la stretta in arrivo sulle rivalutazioni dell'assegno mensile, una questione che ha già suscitato numerose polemiche, sulla quale però sembra ancora esserci spazio per una trattativa. La manovra prevede infatti il blocco parziale o totale della rivalutazione degli assegni in base all'inflazione e, secondo le stime, saranno decurtati ai pensionati in busta paga cifre che vanno dagli 8 ai 150 euro, a seconda di quanto si percepisce di pensione. Tuttavia, il governo sta già preparando un emendamento alla manovra e l'ipotesi è proprio quella di far saltare tutti i tagli sugli assegni previdenziali più bassi, quelli compresi tra 3 e 5 volte il minimo, cioè tra 1.402 e 2.337 euro, scaricando tutto l'onere sulle pensioni più alte. A questo provvedimento, che garantirà un risparmio per lo Stato pari a 2,2 miliardi di euro fino al 2014, si aggiunge quello che farà aumentare progressivamente l'età pensionabile. Per le donne del settore pubblico, dal 2012 l'età minima per andare in pensione salirà da 60 a 65 anni, mentre nel settore privato la riforma partirà dal 2020, con un innalzamento graduale dell'età pensionabile fino al 2032, momento in cui si andrà a regime. Dal 2014, poi, per il calcolo dell'età in cui si potrà andare in pensione, sia per le donne che per gli uomini, bisognerà tenere conto dell'agganciamento alle speranze di vita. 800 24 00 24, il numero verde che vi permette di chiamarci e di prenotarvi per farci delle domande sui temi di questa mattina. Io torno a chiedervi la gentilezza stamattina di limitare le vostre domande alle novità della manovra finanziaria. Per quello che riguarda invece l'altra modalità di intervento, è quella che vi è permessa dall'SMS 349 238 6666, e per chi contesta invece come dire la questione della disparità di trattamento pensionistico per le donne, e c'è chi fa qualche battuta sui giornalisti, vi dico che per quello che riguarda noi giornaliste andremo in pensione a 65 anni. Già l'INPGI, l'istituto di previdenza appunto della categoria, ha varato questa riforma proprio da poco e avrà il varo definitivo la prossima settimana, per cui state tranquilli che io starò qua attaccata a questo microfono per altri 20 anni. Avvocato Falasca, allora buongiorno. Si fa... Però può chiedere l'anticipo perdendoci, quindi non le conviene. Sì, vediamo un po' insomma cosa succede, ma magari può anche capitare che mi sposi con un principe Ciperico, che cosa ne sa, magari mi posso anche allontanare dal lavoro per altre ragioni. Detto questo, appunto, avvocato, lei è tra gli esperti peraltro coinvolti nelle risposte da dare ai lettori del Sole 24 Ore che vi stanno interpellando attraverso il sito. Quali sono, sulla base delle novità appunto che sono arrivate con la manovra, le preoccupazioni più diffuse che stanno in questo momento così animando le domande dei lettori? Ma guardi, di fondo ogni volta che c'è una riforma sulle pensioni, diciamo, tutti vanno in allarme e tutti, giustamente direi, fanno domande sul proprio caso personale. Diciamo che fatta questa premessa, la cosa che più sta generando domande probabilmente è il tema della rivalutazione del blocco della perequazione automatica delle pensioni, no? Quindi tutti vogliono cercare di capire se ci rientrano e soprattutto quale effetto economico comporta il blocco questo previsto dalla finanziaria. E un'altra cosa che sta un pochino accendendo l'attenzione è la storia delle speranze di vita, che guardi che lì dentro tutto sommato, essendo uno molto intelligente, non mi stupisce, l'anno scorso Tremonti se ne vantò, dentro la storia delle speranze di vita c'è la vera riforma permanente delle pensioni, certo. Cioè con quella norma lì che entrò quasi di soppiatto senza una manifestazione, dicemi Tremonti, nella manovra dell'anno scorso, e oggi è stata anticipata, c'è un meccanismo di cambiamento perenne delle regole, diciamo dei requisiti anagrafici delle varie pensioni di cui stiamo parlando, per cui non servirà più di volta in volta discutere sul fatto che l'età si va allungando e quant'altro. C'è un decreto che esce ogni 3 anni che automaticamente tira fuori un numero e cambia tutte i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, per l'anzianità, per, certo, l'assegno sociale. E infatti, quindi praticamente per dirla in maniera semplice, sulla base ovviamente delle condizioni demografiche del nostro paese, questo decreto dice: siccome la speranza di vita, per fortuna, perché, certo, la condizione di salute delle persone va meglio e quant'altro, però sappiate che si vive sempre più a lungo, di conseguenza questo sposta in avanti anche l'andamento in pensione di tutta la popolazione attiva dal punto di vista professionale. Detta in maniera molto semplice e banale, però ecco, questa sì, perché poi il sistema contributivo è in equilibrio solo se è tarato sulla reale speranza di vita, altrimenti non è un sistema che resta in equilibrio. Per farle un esempio, per dire come impatta questa cosa, noi ci siamo spaccati la testa nei giorni scorsi per fare le tabelle che vede sul sole di oggi. Sì. Poi ci torniamo dopo, no? Ma gli scalini per le donne nel settore privato, no? Si dice che nel 2032 si andrà in pensione a 65 anni. Questo è vero, ma non è vero, nel senso che prima di allora usciranno i decreti triennali con cui si adeguerà la speranza di vita. Alla speranza di vita, e con le stime che abbiamo fatto noi nel 2032 si sarà a 68 e qualche mese. Quindi diciamo le notizie sono peggiori di quelle che immaginavamo. Se vede la tabella che abbiamo fatto sul sole, adesso ce l'ho qui davanti, l'ipotesi che facciamo noi è che nel 2032 si vada a oltre 68 anni, oltre 68 anni. Va bene. Capisce come impatta, cioè in tutti i ragionamenti che facciamo c'è sempre comunque quel meccanismo per cui ogni 3 anni può salire il requisito di base. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Oggi Salva Danaio, con la collaborazione dei colleghi del Sole 24 Ore, affronta il tema delle pensioni, delle novità contenute nella manovra economica varata qualche giorno fa dal governo, la manovra correttiva dei conti, il decreto legge 98 che sarà convertito in legge appunto nelle prossime settimane, e quindi una discussione parlamentare che verterà soprattutto sulle novità relative alle pensioni che sono state introdotte, perché qualcuna ha scatenato un po' di malumore, soprattutto quelle parti relative alla stretta sulle rivalutazioni degli assegni pensionistici. Adesso ci andiamo, però avevamo anche scatenato molta attenzione da parte degli ascoltatori sul tema dell'aggiornamento della speranza di vita. Questo era l'ultimo tema che avevamo affrontato appunto con l'avvocato Giampiero Falasca, che è nostro ospite di questa mattina, uno degli autori della guida di oggi. Se ne volete sapere di più, tra l'altro, se volete fare delle domande specifiche sulla vostra situazione, potete inviarle all'indirizzo www.ilsole24ore.com/pensioni, e appunto c'è un bel gruppo di ospiti che sta di esperti che sta già ricevendo tutte le vostre domande, stanno rispondendo appunto progressivamente. Potete inviare questi quesiti fino alle 18 di questa sera. Allora, ci sono già degli ascoltatori che ci chiedono delle delucidazioni sul tema della speranza di vita. Allora, avvocato Falasca, io le faccio subito sentire la domanda di Luca da Cortina, che peraltro ha già letto da cima a fondo la guida di oggi, è già in grado di dirci le cose che non capisce, per cui gliele spieghiamo in diretta. Luca, buongiorno. Ah, buongiorno, sì, appunto stavo leggendo la guida e guardando il grafico sulla pensione di anzianità, pagina 30, sì, leggevo: lavoratori dipendenti, requisiti di partenza, quota 97, 61 anni di età. Sì. Questa quota 97 è la somma fra l'età anagrafica e i contributi, sì, perché adesso c'è il sistema a quote, sì. Se io raggiungo quota 97 prima avessi 61 anni di età, vado in pensione o devo restare a lavorare fino a che non ho 61 anni? Aspetti lì, che adesso ci sono anche, tra l'altro, le finestre di scorrimento che vanno aggiunte anche ai parametri indicati dal Sole 24 Ore in questa tabella. Esattamente, avvocato Falasca. Guardi, comunque il sistema, se lei raggiunge la quota, non va comunque, perché deve avere comunque quell'età minima prevista dalla legge che è riportata lì nella tabella. Adesso la sto vedendo ora. Comunque l'età minima le è richiesta, quindi anche la pensione di anzianità non è più come una volta una pensione completamente svincolata dall'età. Credo che il requisito anagrafico sia previsto dalla legge 102 del 2009. Sì, sì. Comunque di fatto la pensione di anzianità come la conoscevamo 20 anni fa non esiste più, per cui raggiungevo un tot di anni di contributi e andavo. No, c'è comunque un requisito anagrafico che gioca due volte, gioca sia nella composizione della quota e sia poi nel fatto che comunque devo avere un'età minima, altrimenti non posso andare. Mm-hmm. Allora, tra le novità appunto introdotte dalla manovra, quella che dovrebbe avere, ma qua ci saranno delle modifiche, comunque in ogni caso facciamo delle considerazioni sulla base di quella che è l'impostazione comunque della manovra fino a questo momento, a prescindere dalle modifiche che arriveranno, che magari non arriveranno neanche, non è detto. Certo. Il tema della rivalutazione degli assegni. Allora, abbiamo già specificato all'inizio che nella sostanza questa rivalutazione viene azzerata per le pensioni che superano 5 volte il trattamento minimo, mentre vengono dimezzate queste rivalutazioni per i trattamenti compresi fra 3 e 5 volte il minimo. Quindi teoricamente, in pratica, come se il governo dicesse, per le pensioni già alte la rivalutazione per adesso non la facciamo, peraltro è un azzeramento che sarà limitato ad un biennio, se non ho capito male, avvocato Falasca. Sì, ecco, non è che sarà una riforma strutturale, ecco. diciamo così che per ora è per un biennio, però diciamo la manovra parla espressamente del 2012-2013. Come funziona in sostanza? Vedete, al 1 gennaio di ogni anno le pensioni vengono adeguate all'inflazione, ok? Quindi c'è un decreto ministeriale che dice quest'anno le pensioni sono rivalutate. Quindi non è che l'assegno pensionistico viene rivalutato perché così il governo è bravo, lo Stato è generoso, ecco, ma perché è certo oggettivo, certo. Cioè la rivalutazione significa mantenere inalterata la pensione, tanto per capirci. Cioè se io rivaluto mi resta uguale, se non rivaluto l'inflazione è cresciuta e quindi si riduce il trattamento. Esattamente. Ok. Quest'anno è stato all'1,6% ad esempio. Cosa succede adesso con il blocco? Con il blocco al 1 gennaio 2012 non ci sarà la rivalutazione nella versione attuale, ovviamente, per gli importi, come ha detto lei, oltre i 2.380 euro lordi. È molto interessante il calcolo che fa oggi Giuseppe Rodà sulla guida del Sole, perché fa proprio un esempio per capire come funziona, perché poi le regole che correttamente ha citato lei, quindi nessuna rivalutazione sopra i 2380 circa, solo 45% di rivalutazione nella fascia intermedia e rivalutazione completa per quelle basse, diciamo, gioca su scaglioni. Quindi se l'esempio che fa oggi Rodà, che mi è piaciuto molto, diciamo, se c'è un pensionato che ha 3.000 euro lordi, di fatto, vi risparmio tutti i calcoli perché così è andata a prendere il giornale, diciamo, di fatto a fine anno come subito l'avvocato Falasca ha avuto una perdita di 208 euro all'anno. Cioè, o meglio, una perdita. Ha un mancato aumento di 16 euro al mese. Ecco. Infatti, a fine anno diciamo gli veniva 208 euro. Aumento che, come ha detto correttamente lei, lo chiamiamo impropriamente aumento, perché in realtà era semplicemente l'aggiornamento della pensione al costo della vita. Ora è chiaro che diciamo, queste sono norme impopolari, no? A chi piacciono, a nessuno, anche perché poi diciamo. Sono sempre pensioni di ottimo livello, però parlare, diciamo, dovremmo sfuggire alla tentazione di pensare che chi prende 2.380 euro di pensione è un nababbo, no? Però è anche vero che, insomma, le notizie che ha citato lei prima delle borse, delle speculazioni insomma incombono sulla testa Infatti, d'altronde, per riportare in sesto i conti, la strada che si deve percorrere è quella di misure impopolari. Abbiamo capito che non c'è verso, la Grecia sta andando su questa direzione, come sapete bene, ci andrà anche il Portogallo, anche la Spagna probabilmente, e d'altronde è solamente a patto di forti sacrifici che si raggiungono i risultati, e questo è un momento molto negativo, e se si riesce appunto a capire questo, c'è anche un altro ragionamento che per la verità molti ascoltatori fanno, che considerano completamente iniquo ogni tipo di intervento sulle pensioni. Si fa molta fatica, avvocato Falasca, forse anche di questo lei ha percezione, a realizzare il fatto che a prescindere dall'emergenza attuale e dagli interventi che si fanno adesso per rimettere in sesto, tipo questo della rivalutazione bloccata, che sarà appunto un intervento isolato al biennio 2012-2013, il tema è che però gli altri interventi degli anni passati sulle pensioni sono state fatte perché l'età media si allunga, per cui il nostro sistema previdenziale deve diventare sostenibile per garantire un trattamento pensionistico minimo a tutti. Avvocato, perché questo messaggio non passa? Sì. Ma non lo so, credo che probabilmente poi si intrecciano con problematiche politiche, però per esempio per anni non sono stati adeguati i coefficienti di rivalutazione, che sono il punto di equilibrio del sistema contributivo. Andava fatto e non è stato fatto per un decennio, perché in sostanza io con il contributivo metto in un salvadanaio i miei soldi, ho versato 100 nel corso della vita, lo divido per un coefficiente che è la speranza di vita e mi viene la pensione mensile. Quel coefficiente non è stato adeguato per molti anni, perché ovviamente avrei abbassato la pensione, perché poi c'è anche un problema di tutela sociale, di sostenibilità, cioè io, nel senso che spesso le pensioni sono di importi bassi e quindi andare a incidere su quelle pesa. Le dico anche un'altra cosa, che si va sempre sulle pensioni anche per un altro motivo, perché è l'intervento che consente un risparmio immediato, che le pensioni e le tasse, quando si fanno una manovra finanziaria, e il pubblico impiego, sono quelle sono gli interventi che permettono di fare cassa immediatamente. È un po' come quel provvedimento sui depositi, sui conti titoli di qualche giorno fa. Dal giorno in cui si va in gazzetta ufficiale c'è il risparmio, diciamo. Non devo andare a riscuotere, non devo andare, è immediato, quindi è inevitabile che questo sia l'area un po' più dove si va a colpire, se mm-hmm. poi appunto c'è anche il fatto che abbiamo un sistema che ha molte sperequazioni, si va a finire sempre lì. Allora, tra l'altro, questo tema della rivalutazione bloccata dell'assegno pensionistico, che è una rivalutazione bloccata per fasce, che forse neanche si farà, perché lo vedremo, qualche novità ci sarà in sede di discussione parlamentare durante la conversione del decreto legge, sta generando molta preoccupazione in tanti altri ascoltatori che prendono dei trattamenti pensionistici minimi e che hanno capito che adesso anche della loro pensione verrà decurtato qualcosa per aiutare lo Stato a rimettere in sesto i propri conti. Non è così? Adesso, dopo i suggerimenti per chi è in viaggio, sentiremo Maria da Roma, che appunto è un po' preoccupata. Allora, a tra pochissimo. Saluto l'ascoltatore che ci scrive: mangiando meno si vive più a lungo, e con le pensioni da fame che ci daranno vivremo fino a 130 anni a pane d'acqua. Avvocato Falasca, adesso speriamo che non si verifichi uno scenario così devastante, sicuramente saremo tutti in gran forma. Le faccio ascoltare Maria da Roma. Maria, buongiorno. Buongiorno, ci dica. Io sono andata in pensione col sistema misto, sì, e percepisco una misera pensione di 842 euro da marzo, perché da gennaio mi hanno dato l'aumento di 36 euro, poi da marzo sono diventati 842, quindi mi hanno dato 3 euro soltanto di aumento, ma si dovrebbero anche vergognare, perché quando si fanno gli aumenti loro, 1.000-2.000 euro mensili, a noi 3 euro mensili. Loro non la legano tanto all'inflazione. Maria, comunque la sua domanda qual è? Il 10% quando se lo levano loro è troppo poco, il 20-30% si devono decurtare, non il 10%. Maria, mi rendo conto della frustrazione, però... Allora, l'aumento che mi hanno dato, assorbiti l'IRPEF regionale, provinciale, comunale, statale, e ancora di tutte più le addizionali quant'altro. Varie, sì. Io vorrei sapere adesso, con questa legge, della mia pensione che ne sarà? Avrò ulteriori decurtazioni? Maria, la ringrazio, la domanda è molto chiara. Avvocato, adesso Maria ci ha dato l'importo netto mensile che percepisce, dal quale possiamo solamente desumere un lordo, quindi le è sufficiente per poter dare un'indicazione di massima alla nostra ascoltatrice, ma io credo che la possiamo rassicurare. Non ha un trattamento tale da subire un blocco della sua rivalutazione, pur minima. Avvocato Falasca, dov'è? Scusate, ma io l'ascoltatrice l'ho persa completamente, nel senso che mi è andato via l'audio. Allora guardi, glielo ribadisco io, non capisco cosa sia successo. No, stamattina guardi, le dico che prima di iniziare la trasmissione eravamo in un altro studio, abbiamo avuto un intoppo ai nostri mixer, ci siamo spostati, per cui mi rendo conto che possa esserle accaduto. Maria percepisce da marzo, è andata in pensione da poco, un assegno di 842 euro mensili, ci ha spiegato appunto le rivalutazioni minime che ha ottenuto fino a questo momento, di fatto ritiene di dover subire un ulteriore intervento di decurtazione sulla base delle novità introdotte dalla legge. No. Ma lei non è assolutamente interessata a nessun tipo di blocco delle rivalutazioni. No. Appunto, poi, come ha detto correttamente lei, addirittura è probabile che il governo cambi anche gli scaglioni. Fate attenzione però, perché se si cambia lo scaglione verrà fatto a saldi invariati, quindi diciamo verranno colpite maggiormente le pensioni, quelle sopra i famosi 2.300 euro. Cioè, questo che Sacconi l'ha chiarito, però l'ascoltatrice è fuori da questo meccanismo, completamente. Tra l'altro, sì, fuori. Sempre secondo i calcoli del Sole, i pensionati, lo ha detto anche il governo, i pensionati interessati allo stop della rivalutazione dovrebbero essere circa 3 milioni, di cui oltre 2/3 nella fascia che prevede il blocco parziale del meccanismo, quindi sono quelli che percepiscono da 3 a 5 volte il trattamento minimo INPS. Avvocato Falasca, c'è un'altra ricaduta che il Sole, lo scrive il suo collega Rodà, delle norme varate con la manovra, un'altra ricaduta negativa appunto è costituita dal fatto che anche la pensione di reversibilità sarà decurtata, cioè quella pensione che percepiscono i superstiti appunto di nuclei familiari in cui è mancato evidentemente un componente, ma anche in questo caso questa decurtazione sarà per i trattamenti alti? No, nel senso che la reversibilità è la fotografia della pensione lorda esistente al momento del trattamento, quindi se si riduce la base di computo automaticamente si riduce anche la pensione di reversibilità. Questo è l'impatto. Tra l'altro, sulla reversibilità c'è una norma curiosa che vi segnalo e che non è detto che resti nel testo finale, perché proprio il Sole l'altro giorno segnalava qualche problema di costituzionalità. C'è quella norma per cui in caso di matrimoni di ultra settantenni che abbiano una differenza di età sopra i 20 anni con l'altro coniuge, toglie un 10% di reversibilità per ogni anno mancante rispetto a 10. Su questa qua ci voglio fare una puntata apposita, perché ci sono tutte le implicazioni sociali di questo provvedimento un po' sottile. Io la ratio la capisco e la condivido, sì, cioè infatti. Evitare i matrimoni di comodo. Esattamente. Però ho l'impressione che sia difficile giustificarla sul piano della costituzionalità. Va approfondita, anche se poi l'obiettivo è giusto, insomma, evitare che ci si sposi apposta, che la badante insomma si sposi con il vecchietto che ha assistito chiaramente, magari in maniera sicuramente amorevole, però che lo sposi proprio per ottenere la reversibilità della pensione, ecco. O il badante, siamo equanimi, oppure il badante con l'anziana. Insomma, la par condicio la ripristiniamo anche in questa sede. Avvocato, l'ultima domanda di Enzo da Bergamo. Peraltro, siccome oltre a qualche problema al mixer non mi funziona bene anche l'orologio della diretta, mi chiedo se siamo a posto, siamo 52:20 circa, perfetto. Enzo da Bergamo. Buongiorno a tutti. Enzo, buongiorno. Niente, probabilmente mi hai già risposto. Il problema è questo. Volevo capire se questo diciamo non corrispondente dell'aumento ISTAT è progressivo, nel senso che non so, 2.000 euro praticamente si dà tutto, e poi da 2.000 euro a 3.000 euro si dà lo 0,40% e così via. Sì, allora, ribadiamo un po' le regole generali allora della novità, avvocato Falasca. E tra l'altro io così non riesco neanche a farle dire niente sul invece il tema centrale che le tocca per la guida alle donne, ma guardi che ci organizzo una puntata prima dell'estate, perché ci faremo solo welfare al femminile. Sì. Infatti concordo. L'ascoltatore è ottimista, perché in realtà il primo scaglione 1.400 e qualcosa, però diciamo sì, ha detto correttamente, cioè se io ho 3.000 euro i miei primi 1.428 prendono la rivalutazione completa, poi quella quota compresa tra 1.428 e 2.300 rotti si rivaluta solo al 45% e la restante quota allo 0%, quindi appunto si applica per scaglioni. Quindi tanto per fare un esempio, chi prende 3.000 euro non è bloccata completamente alla rivalutazione, ma appunto i suoi pezzetti di pensione sono soggetti alle diverse. Peraltro, tanto per completare il quadro anche delle notizie negative, dobbiamo anche ricordare che questa perdita è secca, non sarà più recuperabile negli anni successivi. È chiaro, perché altrimenti sarebbe stato un prestito forzoso. Questo è vero, ha fatto bene a ricordarlo, non c'è modo poi alla fine del biennio di recuperarle. Tra l'altro, io prima scherzando dicevo per ora è un biennio, insomma è un intervento che è stato fatto più volte in passato sul blocco delle perequazioni, quindi diciamo non dormiamo sonni troppo tranquilli sul fatto che sia solo su un biennio. Vabbè, comunque avvocato, ho la sensazione che ci risentiremo presto, sicuramente prima delle vacanze, per rifare un'altra puntata, per capire poi se intanto su tutto quello che riguarda il blocco delle rivalutazioni verrà rimodificato o meno, e poi promettiamo una puntata solo ed esclusivamente sulle nuove pensioni per le donne. Nel pubblico impiego lo sappiamo già, ma tutto quello che cambia anche per le lavoratrici del settore privato ed autonomo. Grazie avvocato Falasca, buon fine settimana. Benissimo, grazie molte. A presto, grazie anche a Gaia Romani per la collaborazione in redazione. Oggi Roberto Scaltritti in assistenza tecnica, da uno studio all'altro, giornata rocambolesca, per fortuna che gli ascoltatori non vedono. Da Deborah Rosciani, buon fine settimana a tutti.